per il nostro appuntamento annuale con il Festival della Letteratura. Bentornato Alessandro Della Casa, organizzatore della Kermesse. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi. Allora, quale edizione? Prima domanda. Questa è la 25esima. Un quarto di secolo. In effetti il programma contenuto ormai si può dire in una edizione, in un libro, è quanto mai esteso e particolare, se vogliamo. Come ogni edizione, probabilmente questa avrà i suoi motivi di contraddistinguere un festival così importante. Da dove iniziamo? Ma allora, tu stesso hai detto, quest'anno quasi un libro con il catalogo. Infatti abbiamo fatto anche una cosa nuova: il catalogo non è semplicemente più l'elenco dei tanti eventi che ci sono a Festival Letteratura, ma abbiamo fatto proprio un libretto e per la prima volta abbiamo dei contenuti d'autore scritti originariamente per Festival Letteratura di alcuni autori che sono nostri ospiti quest'anno. Penso a Laura Tripaldi, Abdullahi Ahmed, Alice Orciuolo ed altri ancora, che con i loro scritti, con questi piccoli saggi introduttivi, hanno voluto tracciare alcuni percorsi possibili in Festival Letteratura. E appunto Abdullahi Ahmed ha parlato di uno dei temi fondamentali, che sono le nuove cittadinanze, che vedremo al festival nelle varie voci di autori, di italiani con origini lontane dall'Italia. Questo sarà uno, diciamo così, dei focus, dei temi forti di questo festival. Laura Tripaldi ci parla di intelligenze minerali, di intelligenze vegetali, di intelligenze artificiali, in un momento in cui la centralità dell'uomo sembra essersi perduta, no? A fronte del disastro ambientale con i quali dobbiamo fare i conti. E anche questo per noi è un altro filone di incontro e di riflessione che coinvolge moltissimi studiosi anche internazionali. Penso a Joseph Ledoux, penso a Peter Godfrey Smith, ma penso anche appunto alla stessa Laura Tripaldi, Giorgio Vallortigara, Emanuele Coccia, tanti pensatori, scienziati che riflettono proprio su questo cambio, diciamo così, di epoca, di era geologica quasi del nostro pianeta. Alice Orfuolo parla invece appunto di un altro dei filoni che seguiremo, che è quello della gioventù, di come è stata ricodificata questa stagione della vita, come si è estesa, ma come è cambiato anche il modo di interpretarla, di viverla, e di quelle che sono le prospettive e le idee di futuro che quindi ci attendono, perché questo è un filone che attraversa molta letteratura contemporanea, sia narrativa, e parleremo appunto di questo sia con lo stesso Orciuolo che con Mario Desiati, con altri autori, con Giulia Caminito, ma anche appunto di autori, per esempio a fumetti, che hanno una grande parte del festival di quest'anno. Pensiamo a Reviati, pensiamo a Giacomo Bevilacqua, pensiamo ad altri, Fumetti Brutti stessa, e quindi in un confronto che coinvolge sia la narrativa ma anche appunto la graphic novel, diversi linguaggi espressivi, così come tutte le manifestazioni, diciamo così, i prodotti culturali che riguardano soprattutto le giovani generazioni, di fatto riescono benissimo a mescolare, fare sintesi, ibridare forme, modalità linguistiche che sono differenti e di diverse tradizioni. Diverse parole d'ordine quindi a questa 25esima edizione per il Festival della Letteratura di Mantova, che parte, arriva dall'8 al 12 di settembre. Case editrici ospiti, puoi citarne qualcuna? Ma tantissime, di fatto adesso sarebbero dalle più grandi, ma soprattutto il nostro lavoro, come ben sai, è orientato soprattutto anche a valorizzare il lavoro dei piccoli, piccolissimi editori che in Italia portano moltissimi nomi di qualità e anche internazionali, un lavoro di scoperta, di scouting importantissimo. Penso per esempio a Voland, e noi avremo Alexei Ivanov, questo autore russo che è considerato in patria una delle giovani promesse della letteratura russa, che avremo al festival di quest'anno. Oppure penso a Codice con Alicia Kopf, altra autrice, che questa catalana. Quindi questo per noi è un lavoro molto importantissimo, perché quello che vogliamo fare con il festival è non solo portare le grandi voci della letteratura internazionale, quelle più riconosciute. Pensiamo, quest'anno avremo nostra ospite, seppur in collegamento da remoto, Alice Walker, no? L'autrice del Colore Viola, sì. Quindi una grandissima voce della letteratura afroamericana, però è anche quello di far conoscere il pubblico italiano e di portare alcune voci, diciamo così, forse meno conosciute al nostro pubblico, forse meno sostenute dal grande mercato editoriale, che pure meritano di essere apprezzate e diffuse nel nostro paese. Pagine social, il sito online, lo vogliamo citare perché, come abbiamo detto, il programma è quanto mai denso di appuntamenti. Certo, allora il nostro sito è festivalletteratura.it. Ricordo che anche quest'anno avremo un sito temporaneo, 2021festivalletteratura.it, dove sarà possibile, in particolare, mentre nel programma istituzionale si può navigare il sito, avere tutte le informazioni pratiche su come arrivare a Mantova e quant'altro, su 2021festivalletteratura.it ci saranno molti dei contenuti di questo festival. Penso alla radio prima di tutto, che è un'altra, visto che stiamo parlando in radio. Grazie. Mi sembra importante sottolinearlo, Radio Festival Letteratura è al secondo anno e qui anche qui moltissimi contenuti originali, 15 trasmissioni, decine e decine di ospiti coinvolti, e si potrà seguire appunto la diretta nei giorni del festival e poi dopo on demand i contenuti che interessano, e poi da 2021 festivalletteratura.it si potranno seguire anche gli eventi che noi trasmetteremo in streaming da Mantova, tutti gli eventi di Piazza Castello, tutti e altri incontri come quelli delle lavagne e degli accenti. Quindi chi non potrà essere a Mantova, anche se ovviamente noi caldeggiamo la presenza di tutti, è un'ottima occasione appunto per così riprendere, ritrovare socialità anche attraverso i libri, quella del festival. Però chi per vari motivi non riesce ad essere a Mantova, vuole rivedere alcuni dei contenuti degli incontri che non è riuscito a vedere, lo può fare anche attraverso il nostro sito temporaneo. Ovviamente appuntamenti in presenza, in sicurezza, qualche informazione sulla logistica? Sì, allora dunque il festival, la biglietteria del festival è aperta per gli acquisti dei biglietti, quindi anche sul nostro sito ufficiale è possibile entrare e quindi procedere alle prenotazioni e agli acquisti dei biglietti. Questo si potrà fare anche alla nostra biglietteria centrale, che rimane sempre in via Spagnoli come gli scorsi anni. I luoghi del festival sono ovviamente distribuiti su tutta la città, come tradizione del festival. Il tentativo è stato anche quest'anno soprattutto di riconquistare poco a poco tutto lo spazio cittadino, anche come già abbiamo fatto l'anno scorso, inaugurando, no, la stagione, cioè gli incontri anche nei quartieri più periferici della città, con un coinvolgimento anche delle realtà, dei comitati di quartiere, delle persone che abitano magari nelle zone, cioè Mantova è una città piccola, però insomma i quartieri che magari non sono nella cinta delle mura storiche della città. E quindi questo è un po' come diciamo la geografia di Festival Letteratura 2021. Io ti ringrazio tanto, Alessandro, e buon festival. Buona giornata, grazie. Grazie a voi.